Querido mare, quanto è bello, spira tanta sentimento, tomba tu a chi tiene a mento, lasciatate poi e tornare. Guarda, guarda, stu giardino, senti si è sciurrante, no profumo a così fino, parto addio dal lontano da stupore, da sta terra dell'amore, tieni o cuore fai tornare, ma non me la so. Of tender passion sighing, like thy heart to its goal flying, all my thoughts in wakeful dream. See the lovely dewy garden, breathing orange perfume greeting, naught can set my heart a-breathing, like the fragrance of its bloom. Now I hear that thou must leave me, thou and I will soon be parted. Canst thou leave me broken hearted? Wilt thou never more return? Oh,